Spiegami che sto freddo in cuore, che non può passare e sapevo che non torna. Te ne sarisce mille e mille cose, ma mo non tenga voglia di parlare. E poco dice se nisce lo sente, meglio aspettare. Con mano specchio fatta a mille pezzi, ormai si è rotta, c'è sta poca fa. E poco importa se non tenga sorte, se non stai qua. Mano firma la satamità, a do finale non ci sta, e te resta la marmocca, posso l'immaginare. Spiegami con me, che fanno l'ate, un giorno si scetà, notte addorme, e mo che resta tutti questi giorni, solo ricorda non lo sa che fa, fanno male come salire dall'occhio, meglio non pensare. Un mano giorno che se mi sa chiove, con l'occhio all'aria dice a da passare, perché ho niente che muove nuvola da cagnare. Sarice mille e mille cose, ma mo non tenga voglia di parlare. E poi che dice se nisciuno sente, meglio aspettare.